si dice in giro che tu sia l'eterna amica soltanto a casa mia. Si dice che l'amica è quella che vede soltanto quel che sei. Come mai ora io e te qui da soli? Lo sai che un'amica divide la vita e non sai cos'è. Io e te che siamo ancora amici per amore, non c'è una soluzione qui. Io e te che ci teniamo per mano e ci guardiamo e poi parliamo spesso per ore. Io e te che siamo amore ma che non stiamo insieme, amici della sera sì. Io non so più chi sei, io non so più dov'è l'inizio della follia che non si arrende ancora. La donna è un cuore e l'uomo un corridore, aspetta un altro giro che presto arrivo e giuro che lo dico. Come mai ora io e te qui da soli? Lo sai che un'amica ti e non sai cos'è. Io e te che siamo ancora amici per amore, non c'è una soluzione qui. Io e te che ci teniamo per mano e ci guardiamo e poi parliamo spesso per ore. Io e te che siamo amore ma che non stiamo insieme, amici della sera sì. Io non so più chi sei, io non so più dov'è l'inizio della follia che non si arrende ancora. Io non so più chi sei, io non so più.